generale, Capatosta comunque è già impegnata da tempo in, diciamo, in queste, cioè tratta già da tempo questi temi, proprio perché è quello che noi viviamo tutti i giorni, quindi la musica ci permette di esprimere quello che noi abbiamo dentro. E quindi ovviamente esce fuori tutto quello che, insomma, fa parte della nostra quotidianità. Certo. E già in parecchi, diciamo, brani di Capatosta troviamo tematiche inerenti comunque al lavoro nero, allo sfruttamento, all'immigrazione, insomma, temi sociali che, insomma, non si scelgono per qualche motivo, certo, anzi, ma si buttano fuori perché si hanno dentro e si vivono.